possibile. Professor Chiesa, lei ha mai esatto. fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Senta, lei non è molto famosa in Francia. Perché quando uno dice è argentino, allora balla il tango. Non è che tutti gli italiani sanno fare la pizza, eh? Ecco. Certo. Quindi, che non so se sia preparato sul gossipon, ma avrà un corazon. Corazon e dinheiro. Con assolutamente il bacio alla francese, come si vorrà sa dire, soprattutto. All'Hollande. No, dicevo, è innamorato, la buttavo lì. Della vita, sì. Della vita fantastica. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. 150 passaporti con il chip sbagliato. Sembra di stare in trincea. Ma dove vanno? Sempre in vacanza. Ma perché non state a casa? C'è pure la crisi. Ecco, per non trovarvi in un ufficio passaporti così affollato, mi raccomando, prendete le cose per tempo. Noi di andare in vacanza invece ve lo auguriamo, al contrario di quanto dice questo ispettore un po' esasperato dal suo lavoro in questo brano di questo filmato appunto che vi abbiamo proposto. Prima di partire bisogna verificare che sia tutto in regola, iniziando proprio dai documenti. Per il passaporto, che è uno di quelli che richiede un po' più tempo per il rilascio, da questa settimana, proprio da questa settimana, sono entrate in vigore alcune novità che riguardano i denari. Ovvero il contributo di rilascio che aumenta, mentre scompare però la tassa annuale. Oggi torniamo a spiegarvi come si richiede, con quali tempi e quanto costa. Il passaporto non è l'unico documento importante per un viaggio. Siete sicuri che sia tutto pronto, tutto in regola per tutta la famiglia? 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi. E insieme alla carta d'identità e al passaporto ricordate di portare, mi raccomando, anche la vostra tessera sanitaria. La possiedono tutti i cittadini italiani e gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Se il tesserino viene smarrito, rubato oppure deteriorato, illeggibile, potete andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e lì trovate tutte le indicazioni. Oggi in chiusura di trasmissione ci raggiungerà il medico di famiglia di Cuore Denari, Deborah, certo, il dottor Gargiulo, che ci darà consigli per vacanze in tutta sicurezza, quindi se avete già deciso la località di villeggiatura chiamateci, se ancora non avete fatto programmi cercheremo insieme la vostra vacanza ideale per fare il pieno di benessere, mare, montagna, lago, città d'arte, mete esotiche o per chi non parte consigli per una vacanza a chilometro zero. 800 24 00024. Eri diverso, te ne sei accorto, da quella foto sopra il passaporto. Sì, sei cambiato, ma molto più dentro, un mare di ricordi in un momento. 73 euro e 50 il contributo amministrativo per il rilascio, 42 euro e 50 il costo del libretto e, così facciamo molto rapidamente, 116 euro è il costo per il rilascio di un passaporto nuovo di zecca. Buongiorno dottoressa Milena D'Arienzo, primo dirigente della Polizia di Stato, ben trovata a Cuore Denari, dottoressa. Buona giornata a voi. Abbiamo fatto allora un calcolo giusto, 116 euro per il rilascio del passaporto nuovo, visto che parliamo del documento nuovo che si emette in virtù delle nuove normative, corretto? Sì, sì, è vero, il costo è quello, però è il costo per un passaporto che vale 10 anni, abolendo sia la tassa di annuale che prima avevamo e uniformandoci a tutto quanto il resto degli altri paesi europei che non ce l'avevano più già dall'inizio. 800 24 00 24, lo avrete capito, oggi facciamo il punto sulle modalità di rilascio del passaporto e sugli altri documenti con i quali è bene essere in regola prima di partire per una vacanza con la famiglia o anche per far partire i propri figli senza genitori ma con un accompagnatore. Chiamateci o scriveteci al 349-238-6666. Avete già verificato tutto? C'è stato qualche intoppo, qualcosa di poco chiaro, oppure vi siete ridotti all'ultimo e ora temete di non farcela? Naturalmente aspettiamo domande ed interventi, come sempre, anche su Facebook e Twitter. Tu hai fatto il tuo check dei documenti, Nico? Sì, io sono tutta a posto, ma poi io non parto, non vado lontano. Quindi non ti serve, diciamo... assolutamente. Io faccio delle vacanze a chilometro zero, vado in campagna dalla mia mamma. Anche io vado nelle Marche, per cui diciamo non dobbiamo fare tranquilli. Niente. Però poi l'anno scorso per due viaggi negli Stati Uniti la dottoressa D'Arienzo lo sa, perché le avevo chiesto qualche chiarimento, se lo ricorderà, infatti ride. Ho dovuto fare due volte per la questione del mio compleanno che cadeva in mezzo a queste due vacanze, ho dovuto fare due volte la Marca da bollo da oltre 40 euro. Ma andiamo alle novità. Dottoressa D'Arienzo, le nuove voci di spesa per il rilascio del passaporto sono state introdotte proprio da pochissimi giorni. Martedì scorso, 24 giugno, la legge di conversione del decreto, per chi è appassionato di termini di legge, del decreto legge 66 di quest'anno, ha modificato alcuni importi per il rilascio del passaporto ordinario e del passaporto collettivo. E quindi complessivamente possiamo dire che si paga di più adesso o si pagava di più prima? Ma cosa cambia per la precisione? Allora, innanzitutto basta pagare la tassa dei 73,50 euro più il costo del libretto al momento del rilascio. Non è più tenuta alcuna tassa né per il passaporto collettivo né tantomeno per il passaporto temporaneo. Stessa cosa vale anche per i minori. Dopodiché la validità del passaporto è sia 10 anni o 3 anni o 5 anni per i minori, non paghiamo più niente altro. Una volta fatto abbiamo un documento valido per andare in Italia, in Europa, all'estero, sempre. Dottoressa D'Arienzo, ma... Resta che sfruttarlo allora, vale 10 anni, possiamo andare ovunque, esatto. Dottoressa D'Arienzo, qua bisogna approfittarne. Perché no? È avvenuta tutta questa semplificazione? Possiamo tra l'altro definirla così, è d'accordo? Sì, sono d'accordo che è una semplificazione per diversi motivi. Innanzitutto era prevista una tassa annuale che variava, come diceva lei prima, con la scadenza del rilascio del passaporto, e questo comportava dei grossi problemi anche per ricordare la stessa data in cui andava pagata. Erano 40,29 euro ogni anno, quindi per 10 anni era un importo superiore addirittura ai 400 euro. Eravamo solo noi in Italia che avevamo ancora questo tipo di tassazione, mentre adesso siamo uniformi a tutti quanti gli altri paesi europei, ed è chiaro che il contributo iniziale è un pochino più alto proprio per la validità di questo contributo, che è di 10 anni. Certo. Allora, stanno già arrivando delle domande, dottoressa D'Arienzo. Sì, naturalmente tutte le novità di semplificazione riguardano coloro che stanno chiedendo il passaporto ex novo dal 24 giugno. Per tutti coloro che invece già ce l'hanno, quindi nella fattispecie la sottoscritta, ad esempio, a cui scade nel 2006. Se io dovessi partire quest'anno per andare negli Stati Uniti, perché poi il viaggio incriminato è un po' sempre quello, no? Dottoressa D'Arienzo, devo mettere la marca da bollo o non la devo mettere più? No, assolutamente. La normativa, il decreto che lei citava prima, ha praticamente sanato anche i passaporti che sono già in vigore. Quindi chi avesse per esempio un passaporto rilasciato nel 2006 che scade nel 2016, esatto, e va negli Stati Uniti, non ha assolutamente bisogno di mettere nessuna marca e niente più. Dai, perfetto. Va così, parte e via. Esatto. Però poi quando lo rinnoverò nel 2016 devo pagare tutta la nuova tassazione che ha indicato prima. Esattamente, complessivamente 116 euro. Esatto, è così. Abbiamo Paolo, sì, dottoressa D'Arienzo, abbiamo Paolo da Lecco che vuole parlare con lei. 800 24 00 24. Paolo, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi, buongiorno dottoressa. Senta, sì, sono Paolo. Io son partito per gli States a novembre. Sì. E ho dovuto fare per forza la marca da bollo da 40 euro. Esattamente. Ecco. Pensi un po' a me, Paolo, che l'anno scorso l'ho fatta due volte nel giro di due mesi, perché il mio compleanno cadeva lì in mezzo, per cui era la scadenza naturale. E la dottoressa D'Arienzo ride. No, ma ci sta ben vero, anch'io ho riso molto. Io per niente, guardate un po'. Ma comunque viene da ridere su tutto quello che succede in Italia, perché invece siamo lontanamente avanti. Anche se poi qualcuno aveva lo stratagemma per ovviare alla applicazione del bollo. Comunque Paolo, insomma, lei l'ha messo a novembre, si è fatto il suo viaggetto e poi? E niente, la mia domanda è questa: siccome devo ritornarci prossimamente, tra agosto e settembre così, E la mia domanda è, devo rifare il bollo, il passaporto scade nel 2019. Allora, dottoressa D'Arienzo, Paolo non è stato attento, cosa facciamo? Rispondiamo o gli diamo una piccola penale? Rispondiamo che gli diciamo qualche cosa di interessante. Ottimo. Diciamo che ovviamente non deve pagare più niente, ma non lo dovrà pagare più fino al 2019, di stare attento perché per andare negli Stati Uniti bisogna compilare l'ESTA, il sistema per poter viaggiare senza visto e aderire al programma di viaggio senza visto degli americani, e poi soprattutto che il passaporto per l'America deve avere almeno 6 mesi di validità, quindi se scade nel 2019, facciamo conto che scada a luglio, lui potrà viaggiare con quel passaporto fino a gennaio del 2019, non potrà poi usufruirne negli ultimi 6 mesi. Ah, ecco, dovrà, questa è una cosa molto interessante, brava dottoressa D'Arienzo che l'ha ricordato, perché ma questa è una novità introdotta con le misure del 24 giugno o è sempre stato così? No, è sempre stato così, e vi raccomando che non è una novità soltanto per gli Stati Uniti, perché ci sono numerosissimi paesi, soprattutto anche orientali, che richiedono una validità del passaporto di almeno 6 mesi. Incredibile. Non ci si può andare, bisogna farsi un nuovo passaporto se scade entro i 6 mesi. Allora, tra l'altro, grazie per questa precisazione, ci soffermeremo ancora su questi aspetti a lungo nel corso del nostro programma. Ha parlato di viaggi in Oriente, Nicoletta, magari così prendiamo a spunto anche questa riflessione per ricordare di cosa parleremo più tardi. Naturalmente parleremo di viaggi. Un ascoltatore ci ha scritto, che cosa vuol dire viaggi a chilometro zero? I viaggi a chilometro zero sono i viaggi... È come comprare... Brava, a casa, esatto. Perché si può andare in vacanza restando anche a casa, si va in vacanza con la testa, con il cuore, facendo altre cose. Andremo anche lontano, ci porterà il dottor Gargiulo, ma vogliamo anche chiedere ai nostri ascoltatori, e ci state già scrivendo, il viaggio che tenete nel cassetto, il viaggio da sogno che vorreste realizzare e fare, e quello che portate invece nel cuore, quello che avete fatto. Sicuramente il viaggio della maturità sarà uno dei più gettonati, è un viaggio che si staranno sognando i ragazzi che stanno dando la maturità in questi giorni. 800 24 00 24, anche se per le vaccinazioni è molto semplice, non occorre chiedere consiglio al dottor Gargiulo, perché ci si può anche informare su internet, ci sono tante indicazioni molto facili da ottenere, ma comunque ne parleremo. Allora, tanti ascoltatori che a quanto pare si apprestano a fare ogni tipologia di viaggio quest'anno, siamo ben contenti per loro. Allora, per esempio, c'è un ascoltatore che ci chiede di spiegare bene il discorso della bollatura e il discorso del timbro sulla carta d'identità, che so non vale per le crociere. Dottoressa D'Arienzo, per chi va in crociera quest'anno deve fare un'attenzione particolare ai propri documenti di viaggio? Allora, assolutamente sì, le discipline sui documenti di viaggio cambiano addirittura a secondo della compagnia che si utilizza per viaggiare e soprattutto del paese dove siamo destinati ad atterrare. La carta d'identità in alcuni paesi è accettata anche quando porta la dicitura che non è valida per l'espatrio, però sono soltanto determinati paesi, prevalentemente del Nord Africa, e soltanto se si viaggia in gruppo e non singolarmente. Quindi questa cosa va verificata attentamente, altrimenti si rischia poi di non poter scendere per esempio dalla nave da crociera. Certo. Quando parliamo di bollatura del passaporto, ovviamente eliminata la tassa annuale non abbiamo neanche più la bollatura, è tutto chiuso così, non abbiamo più niente da fare e da controllare. Allora c'è Chiara e Nicoletta, questa è per te dopo. Per chi viaggia in gravidanza andrà in Grecia, Chiara, e si firma Chiara e Fagiolino. Amore. Lei è alla 12ª settimana. Non ha bisogno di nessun documento per il fagiolino, naturalmente, però se i bambini sono comunque già nati, dottoressa D'Arienzo, e sono piccolini, quali raccomandazioni è bene fare alle mamme all'ascolto per quello che riguarda i documenti di viaggio? Allora, sui bambini siamo attenti, qualsiasi bambino da 0 anni, cioè appena nato in poi, deve avere un passaporto individuale, soprattutto ed in particolare per andare negli Stati Uniti. Non è più possibile iscrivere i bambini sul proprio passaporto, quindi anche chi avesse un passaporto già in vigore con i bambini iscritti, di qualsiasi età, non è più valido, non può più viaggiare con i bambini con quel passaporto. Però i bambini, ecco, crescono molto in fretta, qua la fotografia e il passaporto va rinnovato forse un po' più frequentemente di un adulto. Esattamente, proprio per garantire appunto la identificazione dei minori e altre problematiche connesse a attività criminali, il passaporto vale per i minori da 0 a 3 anni 3 anni, e poi sopra i 3 anni fino ai 18 anni 5 anni. col raggiungimento della maggiore età vale la regola quella del passaporto degli adulti. Sì, perché a tutti gli effetti sono adulti, sono maggiorenni. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ci state scrivendo anche tanti sms. Tornerei alle questioni dei viaggi negli Stati Uniti, perché alcuni ascoltatori chiedono di approfondire la questione del passaporto valido nei sei mesi precedenti prima di partire, cioè diciamo che i sei mesi precedenti prima di partire va rinnovato, perché altrimenti non si può partire. Camilla chiede: sito del consolato americano, accordi USA-Italia, il passaporto può essere scaduto da non più di sei mesi, non sono necessari sei mesi di validità residua. È lo stesso quello che aveva detto lei, dottoressa D'Arienzo, prima? Allora, questo è effettivamente scritto sul visto, però sono sul sito, però sono determinate condizioni. Non è sempre così quando si vuole usufruire del Visa Waiver Program, cioè del programma di viaggio americano senza visto. Quindi io consiglio, nel momento in cui il passaporto scade fra sei mesi, di rinnovarlo, perché il rischio di essere respinti alla frontiera americana è comunque. Quindi allora, tanto per fare un esempio pratico e partire, per chi ritiene di avere un passaporto valido perché dice mi scade a dicembre, quindi sono a posto, e ha intenzione di andare ad agosto in California per 10 giorni, dottoressa D'Arienzo, in realtà quel passaporto non è valido, quindi andrebbe rifatto. Io consiglierei di rifarlo, perché per partecipare al programma di viaggio senza visto i sei mesi di validità sono importantissimi. Tra l'altro, noi abbiamo ricordato che anche l'ESTA, una volta compilato sull'apposito ISTO, richiede un costo. Il costo sono $14 da pagare con carta di credito, adesso se non mi sbaglio qualcosa in più, qualcosa in meno, e vale anche quello 2 anni. Quindi si può viaggiare con quello stesso ESTA aggiornandolo semplicemente per 2 anni, qualora invece si superino i 2 anni va rifatta una nuova domanda e un nuovo ESTA con il nuovo pagamento. Dottoressa D'Arienzo, Luca e molti altri ascoltatori ci chiedono per quali altri paesi è valida quella che ormai gli ascoltatori di Cuore e Denari hanno ribattezzato la regola degli ultimi sei mesi. Infatti. Allora io a memoria sinceramente non li ricordo tutti. Sì, però dove si possono trovare? Il sito www.viaggiaresicuri.it, che è un sito del Ministero degli Affari Esteri, dove è possibile andare a vedere anche le particolari prescrizioni di ogni paese. Il sito degli esteri ci aggiorna anche sulla sicurezza e su eventuali altri documenti e prescrizioni sanitarie che fossero necessarie per andare nei vari paesi. Tra l'altro, magari adesso andiamo a curiosare, Nicoletta, così diamo anche qualche indicazione ai nostri ascoltatori sui paesi nei quali è sconsigliato andare prossimamente. Diciamo che un po' le primavere arabe si sono fermate. Dottoressa D'Arienzo, voi avete qualche segnalazione in particolare da fare quest'anno come Polizia di Stato? No, non abbiamo segnalazioni particolari, proprio perché la situazione si evolve volta per volta e va appunto controllata sempre sui siti. Sul sito Polizia di Stato, www.poliziadistato.it, anche lì vengono messe delle informazioni specifiche qualora ci siano delle prescrizioni da osservare. Certo. Ma il sito degli esteri è aggiornato sempre in tempo reale. Noi andiamo a Udine, dottoressa D'Arienzo, vero Deborah? Perché abbiamo Federica. Buongiorno Federica. Buongiorno. Eccoci a lei. Allora, ha comprato la marca da bollo intanto, perché l'ha comprata prima del 24 giugno, quando ancora erano in vigore le vecchie regole, Federica. Ci dica. Allora, io ho comprato la marca da bollo, sono in partenza per un viaggio mercoledì, non l'ho ancora apposta sul passaporto. Mi chiedevo, visto che il mio passaporto è in scadenza a gennaio, se posso usare integrandola l'anno prossimo per fare il nuovo passaporto. Ah, ecco qua. Allora, intanto dove va Federica? Perché è anche la destinazione fondamentale per darle una risposta corretta. Allora, io vado in Sudafrica. Tra l'altro, la seconda domanda che volevo porvi è: nel momento in cui arrivo in Sudafrica, il mio passaporto avrà 6 mesi di validità residua. Ho il biglietto di ritorno, viaggio di 3 settimane. Quindi lei dice, non è che non mi fanno tornare. E soprattutto poi per il Sudafrica, Nicoletta, teniamo bene a mente quali sono le prescrizioni, magari. Assolutamente, ma io, come ha suggerito la dottoressa D'Arienzo, avevamo anticipato, sono tutte notizie che si trovano sui siti. Viaggiare Sicuri è uno di questi, perché se no dovremmo aprire veramente Cuore Denari per 12 ore e allora ogni ascoltatore dice io vado in Thailandia, quale vaccinazione? Poi sì, in provincia, no, lì, eccetera, nord, però sud. Quando? Quindi sulle vaccinazioni richieste dai paesi vi rimandiamo ai siti di pertinenza. Allora, Federica va in Sudafrica, dottoressa D'Arienzo, passaporto che scade a gennaio prossimo, Federica, se non ho capito male? Esatto. Eccoci qua, ecco, siamo proprio al limite, no? Però la allora, Sudafrica sicuramente basta che partendo da qui il passaporto sia, abbia i 6 mesi di validità. Una volta arrivata in Sudafrica il passaporto può naturalmente avere meno di 6 mesi di validità, potrebbe addirittura per ipotesi anche scadere durante il viaggio. In quella fattispecie verrà sicuramente fatta rientrare, perché deve rientrare in Italia. Se il passaporto è scaduto può recarsi all'ambasciata o al consolato presente nel paese che va a visitare e gli possono fare un ETD, un emergency travel document, cioè un documento che gli consente proprio il rientro in Italia. Ma nel caso di specie, avendo la validità fino a gennaio, non ha problema a rientrare con quella tipologia di passaporto. Ma questo documento a cui si riferisce dottoressa D'Arienzo costa, perché un ascoltatore, Bruno da Bologna, ci scrive: a Nuku'alofa, sai dov'è? Ma figuriamoci, se è in Tonga. Mi è costato 160 euro perché avevo un residuo di validità di 2 mesi. Ah, hai capito. Quindi Federica, no, allora Federica ne avrà un po' di più, però siamo sempre sotto ai 6. Sì. Dottoressa D'Arienzo, ha sentito, qua per il residuo di 2 mesi 160 euro. È vero che succede a Nuku'alofa, Però. Io non so se avesse smarrito il documento, perché l'emergency travel document di solito si fa quando uno ha perso il proprio passaporto. Nel caso della validità residua di 2 mesi, non so se esistono delle prescrizioni specifiche. Tonga è un posto un po' particolare, ovviamente non so se esistano delle prescrizioni specifiche, però io credo che nella fattispecie lui avesse smarrito il passaporto. Non so, bisognerebbe analizzare l'ultima parte della domanda di Federica. Lei ha preso la marca da bollo, chiaramente, visto che non c'è più l'obbligo, non la mette, la può utilizzare, perché si ti mordi le dita? Perché uno dice, ma mannaggia. Però in realtà no, queste notizie c'erano già un po' prima, forse, però sai com'è, è facile dirsi da questo microfono che siamo tutti bravi. No, allora può utilizzare l'anno prossimo, quando lo dovrà rinnovare, dottoressa D'Arienzo? Sì, la può naturalmente utilizzare. Una marca, una concessione governativa, un contrassegno che sia stato già emesso ha validità di 5 anni dalla data di emissione se non viene apposto sul passaporto. Se invece è stato incollato sulle pagine del passaporto non è più valido, non ha questa possibilità. Lei quindi, lo tiene, esatto, e non lo appiccichi. Federica, non lo perda, Federica. E non lo appiccichi, soprattutto. Non lo perda e non lo appiccichi. Cuore e denari. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue. Eccoci tornati insieme oggi a Cuore e denari. Viaggiamo, stiamo infatti parlando di viaggi. Sicuramente ciascuno di noi ha un viaggio nel cassetto, un paese, un luogo a cui sta pensando da tempo, magari sta risparmiando qualche soldino, e sicuramente ciascuno di noi ha almeno un viaggio che ha conservato nel proprio cuore. Insomma, dimmi dove vai e ti dirò chi sei, perché per viaggiare ci vogliono sicuramente i denari, ma anche il cuore. Allora oggi saranno proprio i vostri racconti di viaggio, ma anche il viaggio che segretamente state accarezzando, a farci andare lontano. Pronta a raccogliere i vostri interventi nella seconda parte della trasmissione sarà con noi, insieme al dottor Carlo Gargiulo, Federica Brunini, giornalista, autrice di Travel Therapy, che ha avuto questa intuizione, ha diviso il mondo non per destinazioni ma per stati d'animo, e allora lei ci aiuterà a scegliere la destinazione più adatta a noi, se ad esempio abbiamo avuto un anno difficile dal punto di vista lavorativo, se è finito un amore, quindi siamo con il cuore rotto, un po' spezzato, se ci sentiamo scarichi o particolarmente stressati, proprio come delle molle. Parliamone con lei, 800 24 00 24, e il dottor Gargiulo naturalmente ci darà il suo placet. E parleremo anche di quelle che abbiamo ribattezzato vacanze a chilometro zero. Questa dicitura è piaciuta a molti dei nostri ascoltatori, che ci ringraziano. Bracciola dice: fantastico, non vedo l'ora di dirlo a mia moglie. Uno, e poi hanno anche questa mattina coniato il nuovo concetto delle regole dei 6 mesi. No, le regole dei 6 mesi residui. Perfetto. La regola dei 6 mesi residui, proprio per essere precisi. Lei non ne sa niente, vero? Ma di che cosa? Del furto. Quale furto? Che mi hanno rubato la borsa. Maresciallo. Lei non ne sa niente. Maresciallo, ma come può pensare a una cosa simile? Io non lo so, io mi meraviglio. Come può dire questo? Infatti non posso dirlo, ma lo dirò. Dopo 35 anni di servizio, un anno prima di andare in pensione, che mi fanno questo scherzetto. È tanto grave. Molto grave. Aveva forse dei soldi suoi dentro? Non facciamo qualcosa di valore, di più dei soldi. Fotografie, ricordi, insomma. I suoi documenti. Ah, già, è vero. Che stupido, non ci pensavo più. Mi era passato di mente i miei documenti. Che vuoi fare? Eh sì, smarrire i documenti o addirittura essere derubati, ci manca pure questa, a ridosso di un viaggio, ma insomma ci possono capitare, ecco, esatto, ancora peggio. Mamma mia. E quindi insomma sono situazioni nelle quali ci si può anche ritrovare, allora lì subito a correre a rifarli questi documenti, a cercare di capire come velocizzare quanto più possibile il procedimento. Allora 800 24 00 24, continuate se volete a farci le vostre domande sul rilascio del passaporto da zero, oppure il rifacimento appunto di questo documento, e in generale tutte le vostre domande sui documenti da verificare prima delle vacanze. Con noi questa mattina dottoressa Milena D'Arienzo, primo dirigente della Polizia di Stato, che sta rispondendo a tutti i vostri quesiti. Direi di andare, visto che molti ascoltatori stanno sollevando la questione del portare i minori con sé o far fare loro i primi pensa viaggi. Pensa quando porterai i tuoi nipoti negli Stati Uniti. Che Michele mi ha detto: ma zia, non posso venire in America, non so parlare l'inglese, amore mio. Allora andiamo dove? Bergamo? Andiamo a Bergamo, no, perché devo capire anche questo nome, che cos'è? Fozum? No, Fozum. Fozum, ecco qua, ho sbagliato anche Fozum. L'accento. Ecco, vedi, io ti ho lasciato andare avanti. Ecco qua, di che origine è Fozum? Io sono di origine eritrea, che vivo a Bergamo. Uh-huh. Niente, io vado con i miei figli negli Stati Uniti, no? Sì. E mio fratello, che vive a Londra, vuole affidarmi suo figlio, che è un quindicenne, però. Uh-huh. E come mi devo comportare? Quindi, in primo luogo, questo ragazzo deve venire da Londra in Italia, deve giusto? Deve venire qua, esatto, ecco. Esatto. Dopodiché, con lei se ne va negli Stati Uniti. Hai visto che anche oggi abbiamo aperto lo sportello internazionale di Cuore Denari? Allora, dottoressa D'Arienzo, qua abbiamo un caso un pochino più complesso, andiamo per step. In primo luogo, questo minorenne deve essere affidato appunto a questo nostro ascoltatore che vive a Bergamo, probabilmente ammettiamo che faccia il viaggio da solo. Come devono fare questi due fratelli a gestire questo ragazzo? La prima cosa che dobbiamo capire è se è cittadino italiano o non è cittadino italiano, perché cambia. Se è cittadino straniero, vale la disciplina del paese straniero. Sì. Fozum, suo nipote è londinese, inglese lui o italiano? È londinese, è inglese. Io sono italiano. Perfetto. Dottoressa D'Arienzo? Allora, per il bambino vale la legislazione inglese, quindi bisogna vedere la legislazione inglese che cosa prevede per un cittadino inglese per viaggiare dall'Inghilterra in Italia e dall'Italia negli Stati Uniti, perché poi chiaramente bisogna vedere qual è la disciplina per i cittadini inglesi. Questo è un errore molto frequente, perché si applica per i cittadini stranieri la stessa disciplina per i cittadini italiani, mentre invece non è così. Ecco. Se il bambino fosse italiano, per esempio i figli del signore di cui stiamo parlando, se sono italiani e volessero viaggiare con una persona che non è il padre, in questo caso per esempio fosse lo zio, avrebbero bisogno di una dichiarazione di accompagnamento che si richiede presso la questura. È un atto di volontà che entrambi i genitori fanno di affidare il bambino alla terza persona, che non sia il padre o la madre, e viene vidimata dalla questura. Certo. Tra l'altro so che questo documento, questa dichiarazione di accompagnamento, dottoressa D'Arienzo, viene rilasciata dalla polizia solo per i viaggi aerei all'estero, no? Ma per le tratte che coprono solo il territorio nazionale, la polizia non le rilascia e oltretutto non può rilasciarle, però talvolta sono le compagnie aeree stesse, no? Che la richiedono, e quindi chi le deve fare? Ecco, c'è questa situazione. Innanzitutto questa dichiarazione vale per bambini minori di 14 anni che viaggino con persone che non sono i genitori, perché se viaggiano con i genitori o solo col papà o solo con la mamma o con entrambi non c'è bisogno di nessuna dichiarazione di accompagnamento, e questo è uno. Due, se sono superiori ai 14 anni, alcune compagnie aeree li richiedono per bambini di 15-16 anni, la legislazione italiana non lo prevede, cioè il maggiore di 14 anni che ha compiuto 14 anni può viaggiare con chiunque su tutto il territorio nazionale, all'estero, dove vuole, non ha bisogno di dichiarazione di accompagnamento. In Italia ci sono alcune compagnie aeree, specialmente purtroppo quelle low cost, che sono disciplinate da una normativa che non è italiana, è straniera, nel loro contratto di trasporto prevedono questa dichiarazione di accompagnamento anche, non so, per andare da Palermo a Roma, da Roma a Milano. Questo non è possibile, cioè è possibile farsi fare un'autocertificazione per esempio al comune, ma nessuno della polizia potrà vidimare un documento del genere. Quindi ecco, nel caso in cui si abbia un dubbio è il comune in questo caso, come dire, l'ente di riferimento per farsi rilasciare questa certificazione. Io penso di sì, ecco. E consiglio sempre, quando si comprano questi biglietti, come sapete ci sono tantissime condizioni di trasporto da accettare prima di fare questo biglietto, di leggere attentamente cosa prevede per i minori, certo, in maniera tale poi da non trovarsi in sorprese, infatti. Esatto. Allora, sentiamo Daniela da Brescia, magari, perché credo che voglia ribadire proprio alcuni di questi aspetti. Daniela, buongiorno, è tutto chiaro? Buongiorno. Forse le abbiamo risposto, ma... Sì, in parte sì, cioè io volevo fare una sorpresa ai miei nipoti e fare una breve vacanza qui in Europa, non abbiamo ancora stabilito il dove e quando. Anni? 14, 16, uno è figlio di mia figlia e le due ragazze figlie di mia sorella. Mi sembra già di aver capito che quindi devo andare in questura. Sì. E che i genitori devono fare questa dichiarazione di accompagnamento, dottoressa D'Arienzo, hanno 14. Sì. In più volevo sapere se i minori hanno bisogno del documento d'identità, ma credo proprio di sì. Sì, l'abbiamo detto prima, dottoressa D'Arienzo. Allora, se hanno già compiuto i 14 anni, non hanno bisogno di nessuna dichiarazione di accompagnamento. Ecco. Lei li può portare con sé in tutta Europa, all'estero, senza bisogno di dichiarazione di accompagnamento, ovviamente con un documento d'identità individuale, sia esso il passaporto, sia esso la carta d'identità. Siamo sicuri che nessuna compagnia aerea lo chieda, dottoressa D'Arienzo? Se qualcuna lo chiede, Infatti, vedere prima che biglietto è stato comprato, qual è la compagnia aerea, che cosa prevede per questo tipo di viaggio, e a quel punto lì rappresentare che non c'è la possibilità di farlo avere vidimato dalla questura, ma abbiamo visto, questa però è soltanto un'esperienza giorno per giorno nei posti di frontiera, che si accettano delle autocertificazioni in cui i genitori dichiarano di affidare il minore maggiore di 14 anni alla zia, in questo caso. Certo. Per quello che riguarda i documenti di viaggio, è necessario che naturalmente ne abbiano uno di identità, almeno per viaggiare in Europa, questi ragazzi. Esattamente. Perfetto. Carta d'identità, in alcuni paesi è accettato anche il lasciapassare, che è un certificato di nascita e cittadinanza con un timbro della questura che lo autorizza a viaggiare in quei determinati paesi. Prima di salutare la dottoressa D'Arienzo, due domande. Una, Marco, al 349-238-6666, il rilascio del passaporto, dato che le ho lette anche un altro paio simili, si può avere in qualunque questura italiana o solo in quella del comune di residenza? Dottoressa. Allora, la regola è comune di residenza, però c'è la possibilità che uno si trovi in un altro comune per esigenze contingenti. In questo caso basta semplicemente dimostrare il perché ci si trova da un'altra parte, perché si ha necessità di avere il passaporto, e lo si può richiedere tranquillamente da un'altra parte. Certo. Allora, ci sono molte domande di molti ascoltatori sulla questione del trasporto degli animali. Sai che c'è, Nicoletta, che entro una decina di giorni facciamo un'altra puntata solo su questo. Dai. Perché ce ne sono di molti nostri amici che naturalmente portano con sé gli amici a quattro zampe. Questa è una cosa buona, perché vuol dire che non li abbandonano. Allora, siccome è una puntata totalmente degna della massima attenzione, noi dedicheremo solo ed esclusivamente a questo aspetto un'intera puntata. Tanti amici che ci scrivono, risponderemo in privato. L'ultima domanda era quella di Domenico dalla provincia di Napoli, che voleva segnalare che il suo bambino di 6 anni ha fatto il passaporto nel 2006, dovrebbe rinnovarlo ogni 2 anni, ma quando arriva in aeroporto gli fanno sempre delle storie e lui deve ricordarlo. Domenico, ci scriva in privato e noi le risponderemo. Sta per andare in onda il traffico. Grazie, dottoressa D'Arienzo, ha sentito come siamo dirompenti qua. Arrivederci, buon weekend. Buona giornata naturalmente e a presto e alla prossima puntata. Cuore e denari. Il viaggiare mi sembra un esercizio giovevole. L'anima vi si esercita continuamente notando le cose sconosciute e nuove. E non conosco cosa migliore, come ho detto spesso, per la formazione della vita, che presentarle continuamente la diversità di tante altre vite, opinioni, usanze, e farle assaggiare una così continua varietà di forme della natura. Michel de Montaigne. Viaggiare è un'occupazione utile, scrive De Montaigne, ma viaggiare è anche un'esperienza salutare per il nostro benessere. Qui in linea con noi il medico di famiglia di Cuore Denari, così l'abbiamo ribattezzato. Buongiorno, dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno anche a Deborah. Grazie. Dottor Gargiulo, lei viaggia spesso per lavoro, questo lo so. Sì, effettivamente è vero, viaggio molto per lavoro, prevalentemente in Italia e non all'estero, e quindi cerco però, anche quando nei vari viaggi all'estero, di viaggiare con sicurezza, di viaggiare in modo tranquillo, in modo da poter essere sempre tutelato per quello che riguarda la mia salute, che questa è una cosa estremamente importante. Oggi daremo proprio consigli ai nostri ascoltatori. Deborah, nella prima parte della trasmissione, con la sua esperta, ha affrontato il grande tema di documenti, passaporti, carta d'identità. Oggi con lei parleremo della tessera sanitaria, è meglio sempre tenerla con sé. A portata di mano, sì. Esatto, è un documento fondamentale per riuscire a farsi assistere, a farsi curare in tutti i paesi della Comunità Europea e in tutti quei paesi che hanno delle convenzioni con il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Che significa questo? Che in caso di necessità possiamo presentare il nostro documento e a quel punto saremo assistiti e seguiti come se fossimo nel nostro paese per quello che riguarda ricoveri, per quello che riguarda interventi di prima necessità, ovviamente. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di chiamarci, e lo stanno già facendo, e di scriverci per raccontarci il viaggio che tengono nel cassetto e quello invece che a loro è rimasto nel cuore. Sono arrivati già molti messaggi. Un ascoltatore ci scrive, Deborah, che vuole ad esempio continuare, provare a terminare il viaggio di il Cammino di Santiago perché... che so che è un'esperienza bellissima, esatto, perché anche però... Carolina l'ha fatta e è bella lunga, molto bisogna... bello, ma gran vescica ai piedi, mi raccontano anche dei miei amici un po'. Che l'hanno un'altra dovuto interrompere, ascoltatrice, sì. Vorrebbe, ci dice: non so se il mio viaggio fa moda, di sicuro no, ma io vorrei andare a Međugorje in autunno, ci sono stata per 3 volte, è semplicemente fantastico, ma quest'anno non so se posso. Vabbè, ci spero. Dottor Gargiulo, è già in linea con noi Federica Brunini. No, perché devo anticiparvi che, siccome io sto monitorando le mail all'indirizzo cuoredenari@radio24.it, c'è una mail molto lunga e articolata di Anna, una nostra fedele ascoltatrice, che vuole proprio chiedere suggerimenti alla persona che fa travel therapy. Ci racconta tutto il suo caso, il suo anno molto faticoso, per cui vorrebbe avere un consiglio su come potersi rigenerare dopo quest'anno così complesso. Allora noi vogliamo salutare e dare il benvenuto a Federica Brunini, giornalista e autrice di Travel Therapy, Come scegliere il viaggio giusto. Ciao Federica. Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Buongiorno. E non vedo l'ora naturalmente di fare la travel terapista con voi questa mattina e di dare i consigli giusti agli ascoltatori e a questa Anna che ci ha scritto e che dice di aver bisogno di me e io spero di poterla accontentare. Poi c'è Ugo che è molto stressato e poi c'è un ascoltatore innamorato che vuole, l'hai letto? Che vuole sapere dove portare, ma pensa che carino, dove portare il suo nuovo amore. Federica, ottimo. Posso presentarti come psicologa dei luoghi? Mi piace moltissimo, ti ringrazio per la definizione ed è esattamente così che mi sento e quindi spero di poter fare la mia psicotravel terapia con voi. Certo. Naturalmente il dottor Gargiulo ci accompagnerà passo passo. Dottor Gargiulo, lo sappiamo, queste saranno delle vacanze un po' rosicchiate, no? Colpa della crisi. Come lo sono da qualche anno, mete più ravvicinate e periodi più brevi. Perché secondo un'analisi della Coldiretti, faccio un po' alla Deborah Rosciani. Certo, vado, prego, un po'. Prego, vai. La spesa complessiva degli italiani per le vacanze nell'estate 2014 si è ridotta di circa 10 miliardi per effetto di un calo delle partenze, di un taglio del 25% del budget. Come sono andata, Deborah? Sei andata molto bene, tenendo conto che già da 3 o 4 anni che gli italiani tagliano su questo budget e si è ridotto praticamente all'umicino. Quindi meno denari, dottor Gargiulo, ma cerchiamo di non rinunciare al nostro benessere. Quanto deve durare una vacanza per essere salutare? Ma diciamo che dei limiti non ci sono esattamente, però io calcolerei almeno una settimana di vacanza, deve essere, considerando al di fuori di questa settimana il periodo di viaggio, perché quella è un'altra cosa estremamente importante. Noi siamo portati ad arrivare fino all'ultimo momento lavorando e poi magari la mattina dopo partire di corsa. Questo è un grosso errore, così come è un errore rientrando dalla vacanza il giorno dopo riprendere il lavoro. Dobbiamo avere per forza un giorno alla partenza, un giorno all'arrivo per prepararci alla partenza nella maniera migliore, quindi essere anche più riposati se guidiamo la macchina o più tranquilli se affrontiamo un viaggio in treno o in aereo. Ma quando rientriamo, soprattutto, abbiamo bisogno di una giornata per rientrare in quella che è la nostra quotidianità e poi poter riaffrontare il lavoro. Sembrano due giorni sprecati, ma non è così. È un po' come il riposo per chi si allena, perché esatto, i medici sportivi ci dicono che bisogna allenarsi, però bisogna avere anche una giornata di stop, e in quella in qualche modo ti aiuta a fissare quello che hai prodotto. Abbiamo Rosario che ci chiama dalla provincia di Parma. Oggi anche è stata una giornata un po' in cui abbiamo coniato nuove definizioni, la psicologa dei luoghi per Federica. La creatività veramente si spreca oggi. Il medico di famiglia di Cuore Denari per il dottor Carlo Gargiulo. Abbiamo parlato di vacanza chilometro zero. Rosario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno al dottore. Anche buongiorno a Deborah. No, a me no, perché sono stata cattiva. Chiedo scusa, stiamo scherzando. Rosario, ci dica, lei andrà lontano o starà a casa? No, io per il terzo anno consecutivo sarò a casa. E mi curiosiva questo consiglio eventualmente di questa vacanza a chilometro zero per chi non va via, in che cosa consiste? Certo, ci facciamo aiutare da Federica Brunini, perché si viaggia non solamente, si può viaggiare anche, dicevo Federica, con il cuore e con la mente. Proprio così, nel senso che viaggiare non significa necessariamente spostarsi, andare dall'altra parte del mondo e affrontare grosse ore di trasferimenti, anzi il viaggio direi che è più, se vogliamo, un'attitudine, no? Che dobbiamo avere anche nella nostra vita quotidiana. Io faccio sempre l'esempio, magari per andare al lavoro tutti i giorni facciamo sempre lo stesso percorso, ecco, magari viaggiare significa per una volta cambiare quel percorso e arrivare alla stessa destinazione però passando per altre strade, utilizzando altri mezzi di trasporto, perché comunque il viaggio è un cambio di sguardo, è un'occasione, no? Anche per venire a contatto con le realtà del territorio in cui viviamo e che per mancanza di tempo non conosciamo, non frequentiamo. Poi ti racconto, ecco, cosa combino io. Viaggiare vuol dire anche appunto fare una gita fuori porto, una mezza giornata semplicemente a pochi chilometri di distanza, magari con un mezzo non inquinante come può essere l'auto, ma magari il treno, magari anche riscoprendo il trasporto locale come un bus, una barca, seconda poi di dove in realtà abitate, dove siete localizzate. Però credo che per chi resta a casa si possano organizzare delle mini giornate in cui un giorno si va all'Italia, in questo ci favorisce perché è un paese assolutamente con tante variabili territoriali e topografiche, per cui un giorno si può andare al mare, un giorno si può andare in montagna, esatto, un giorno si può o si può cambiare ogni giorno, Federica, per chi non vuole, non ha un budget da investire, esatto, qualche cosa ogni giorno, provare a fare una cosa che non si è mai fatti, questa è vacanza. Cuore e denari. Operazione vacanze. Tiriamo indietro le panze, tutti in costume e coraggio, oh oh oh, puntiamo dritti al villaggio, oh oh oh, occhio agli animatori della cuccata di dottori. E noi il dottore ce l'abbiamo e anche Federica Brunini che, esatto, ci consiglia dove andare in vacanza in base al nostro stato emotivo. Dottor Gargiulo, ma lei come medico di famiglia, mi dica un po' la verità, fa anche un po' l'agente di viaggio, i suoi assistiti le chiedono consiglio sulla destinazione? Effettivamente questo discorso dell'agente di viaggio è molto carino. Sì, succede spesso, perché in realtà poi chi magari ha una patologia cronica come può essere un'ipertensione, un diabete o una patologia respiratoria, è chiaro che si preoccupa della sua salute, soprattutto quando va in vacanza. E allora magari chiedono montagna, mare, lago, dove è preferibile andare, dottore, quest'anno? E quindi ci mettiamo lì tante volte 10 minuti, un quarto d'ora a decidere la meta delle vacanze successive. In genere quando sono vacanze un pochino più esotiche io mi propongo come medico per l'assistenza, però non mi portano mai. Mamma mia, no, guardi. Bisogna che lei e Federica Brunini vi passiate i numeri, perché così davanti al suo assistito dica un attimo, chiamo Federica. Perfetto. Potremmo fare un bel team in effetti. Ecco, e naturalmente io e Nicoletta veniamo, lo sapete voi, sì. che noi vi stiamo lì appiccicati dietro, perché noi dobbiamo testimoniare ovviamente come reporter quello che combinate. In valigia con noi. In valigia con noi. Tra l'altro il dottor Gargiulo fino a luglio non parte, perché sai che è impegnato a Roma Vintage. Con il Roma Vintage, esatto. Come sta andando, dottor Gargiulo? Domani un altro appuntamento. Domani abbiamo un altro appuntamento molto importante, perché è l'appuntamento con la prevenzione odontoiatrica. Dalle 10 alle 16 ci sono i dentisti a disposizione del nostro pubblico, delle persone che verranno a Roma Vintage al Parco di Centocelle a Via Casilina a Roma, e lì potranno farsi controllare i denti in un momento come questo, quando effettivamente un po' la prevenzione tendiamo a trascurarla per problemi soprattutto economici. Può essere utile avere il consiglio giusto del dentista che ci dica che cosa dobbiamo fare o come dobbiamo intervenire. Ecco, prima di partire, quali sono i controlli da fare, dottor Gargiulo? Perché poi uno va in vacanza, bam, parte il mal di denti. Mamma e quando mia. Arriva il mal di denti vicino a Ferragosto di notte. Dottor Gargiulo. È un po' come quando si rompe il frigorifero. Brava. Devi chiamare l'idraulico all'ultimo minuto, eccoci. Allora, il controllo odontoiatrico fatto prima delle vacanze può essere senz'altro utile, perché a volte ci sono quelle piccole carie che lì per lì sembra che siano da trascurare, e in realtà invece possono diventare molto fastidiose e danneggiare seriamente la nostra dentatura. Ma un altro controllo che io direi interessante da fare prima di andare in vacanza, se è un po' che non le facciamo, un controllo delle analisi del sangue, perché a volte sapere di avere un po' di colesterolo, un po' di glicemia, qualche piccolo problema ci quindi può lei aiutare. Dice prima, non dopo, perché di solito sono controlli che si fanno al rientro dalle vacanze, no? Quando uno... No, ormai è un po' come chiudere la stalla quando sono scappati i buoi, insomma non serve dopo. È cattivo questo dottor Gargiulo, ci fa andare in vacanza con il cuore pesante, che uno si sente grasso col colesterolo alto, la pressione ballerina, la glicemia. Esatto, però in compenso la prova bikini avverrà nel migliore dei modi possibile. Allora, iniziate e continuate anzi a chiamare 800 24 00 24 per raccontarci il vostro viaggio nel cassetto e il viaggio che desiderate. Vi leggeremo tra pochi messaggi, ma abbiamo Fabio che ci aspetta da Padova. Certo. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie. A proposito di chilometri zero. Sì. Volevo dire, io sono in ferie per 2 settimane, rimango a casa e mangio i pomodori del mio orto. Ma buoni, Fabio. Più chilometri zero. No, ecco, ma sai che sono Nicoletta... tiepidini dal posso sole. Posso dire che mi hai dato una ricettina per fare una pasta con il pomodoro al forno? Dai, dopo la diciamo. No, proprio siamo in tema, Fabio, quindi con i pomodori. Se no, te la do io una ricetta. Dai, certo. Fabio, vediamo se è la sua è più buona. La ricetta? Come vuole. O ricetta o viaggio? Sì. No, vabbè, parlo del viaggio. Beh, io sono andato in Irlanda in viaggio di nozze e volevo dire, per chi non è pratico, la difficoltà della guida a destra. Ah, sì. A sinistra. Esatto. Sì, subito fa. Fabio è mancino come me, forse, perché per voi cambiamo la destra e la sinistra, perché infatti... Sì. Guarda, in realtà... Posso dirvi che invece è un buono stimolo per tenere allenato il nostro cervello e tenerci sempre allerta, nel senso che cambiare direzione di guida aiuta veramente ad allenare il nostro cervello, è un allenamento, prendiamolo così invece che come un ostacolo, come una sfida, e può diventare il viaggio nel viaggio, perché comunque si vedono davvero le cose da un'altra prospettiva, e te lo dico perché in questo momento sono sull'isola di Malta dove si guida a sinistra e anch'io ho la stessa difficoltà. Ha capito la Federica, track con questo blitz ci racconta che è a Malta, per imparare l'inglese Federica oppure per così per imparare l'inglese ma anche per scoprire la parte diciamo vacanziera dell'isola, quindi le sue spiagge. E soprattutto quelle oasi che ci sono come l'isola di Gozo che è a pochi chilometri e che ci permette di vivere una vacanza old style da un certo punto di vista, cioè molto selvaggia, molto semplice e a contatto con la natura, che è quello che mi augurerei che molti dei nostri ascoltatori volessero e potessero fare quest'estate. Allora cerchiamo di profilare un po' le indicazioni per i nostri ascoltatori, intanto passiamo poi a alcune delle loro domande, leggiamo i loro messaggi. Federica, tu dovresti dire, dare sì. e dirci che cosa fare nel caso ci trova. Ecco, vorrei con te fare un profilo sotto tre aspetti. C'è chi è molto stressato e quindi okay. proprio alla mente affaticata. C'è chi invece dopo un anno si sente proprio stanco fisicamente, esatto. dolorini, non si sente in forma. E c'è chi invece, come spesso capita, ha capito che è arrivato il momento di prendere tempo per sé. Proprio ieri parlavamo del debito di sonno che procura danni alla nostra salute, ma anche il debito di tempo ci trasforma magari in altre persone, vero? Può capitare a un certo punto che tutto questo ci appaia chiaro e che dentro di noi sentiamo forte l'esigenza di ritrovare una dimensione nostra, intima, profonda, direi quasi un bisogno di spiritualità. Quindi corpo, mente, spiritualità, questo è l'incarico che vogliamo dare a Federica Brunini. E intanto che Federica fa una pensata per portarci lontano ma anche vicino, dottor Gargiulo, quali sono le raccomandazioni per non avere sorprese oltre a fare gli esami del sangue? Iniziamo da chi ha la pressione un po' altina. Allora, chi ha la pressione un po' altina dovrà evitare i soggiorni in alta montagna e soprattutto anche quando i soggiorni sono in una montagna medio-alta, dai 1500 ai 2000 metri, dovrà evitare di arrivare bruscamente nella nuova località. L'altra cosa importante è, arrivato in questa località di villeggiatura, controllare la pressione. Potrebbe essere utile magari adeguare, sotto consiglio del medico del posto, la terapia antipertensiva alle nuove necessità legate all'altitudine. In altre località, ad esempio come le località marine, direi che l'iperteso non ha problematiche. Ecco, l'ipoteso sì, magari. Per chi va, ad esempio, in un villaggio vacanze o per chi si impegna in una vacanza dove c'è una certa quota di attività fisica o di attività sportiva, di non esagerare senza avere un po' di allenamento. Tante volte siamo portati a farlo, un po' tutti, sì. perché vogliamo godere appieno di quei pochi giorni. E ma certo. non sì. E poi track che facciamo il danno. Esatto. E poi altre, ha terminato con le prime. No, allora, penserei anche agli allergici, agli asmatici, perché dottor Gargiulo. Esatto, anche lì gli allergici. Paese che vai, allergia che trovi. Insomma, non voglio gufare, ma uno che è allergico deve rizzare un po' le antenne. Brava, esistono proprio dei calendari e delle carte geografiche delle allergie, dove è possibile vedere che cosa succede in paesi diversi dal nostro in tempi che per noi, ad esempio, estate, là può essere tranquillamente primavera o autunno, e quindi avere dei fenomeni allergici legati alle fioriture diverse. È importante saperlo, perché non bisogna rinunciare al viaggio, ma bisogna premunirsi. L'antistaminico in borsa, esatto. il cortisone eventualmente in borsa, e a quel punto anche una piccola crisi allergica può essere tranquillamente risolta. Mm. E allora abbiamo Bruno da Treviso, che adesso ci racconterà, ha fatto tanti viaggi meravigliosi e chissà se ad ogni partenza si portava dietro la carta geografica delle allergie. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda allergie, non ne ho nessuna. Bravo. Perché tutte le vaccinazioni le facevo tutte, dalla febbre gialla e da altre cose dicendo. Unica cosa allergica è il pomodoro crudo. Quindi, quindi non può andare a mangiare il pomodoro del nostro ascoltatore di Padova. Ecco, comunque viaggi importanti, quello della Papua Nuova Guinea, in mezzo, diciamo, ai tagliatori di teste, che ci sono ancora, anche se dicono di no, perché abbiamo visto quelle famose testine, quelle rimpicciolite dietro a questi villaggi. Poi, diciamo, prima si parlava per quanto riguarda l'alta quota, e abbiamo fatto tutta la transimalayana fino al capo base dell'Everest a 5600 metri. Poi diciamo tutta la parte dell'Ecuador, su, diciamo, nella parte del Cotopaxi, che è un ghiacciaio a 8000 metri, si è arrivati anche lì a 5600. Quindi prima di partire è questo, controllo del cuore, tutto a posto, non ho avuto mai problemi. E grande questo. Bruno, che oggi grande. Viene proclamato seduta stante, l'ascoltatore di Cuore e Denari. Naturalmente ci piace questo suo approccio, no? Al viaggio, con grande... con grande serietà, esatto. effettivamente. Certo. Federica, vorrei un commento all'intervento di Bruno. Viaggiatori si nasce o si diventa? Perché ci sono persone che hanno questo spirito di avventura, altre invece che preferiscono poi alla fine tornare negli stessi luoghi, che sono spesso vicino a casa. Non è solamente un problema di denari, perché molti ascoltatori ci scrivono che proprio con 4 soldi in tasca hanno fatto dei viaggi straordinari, improvvisandosi un po'. Esatto, è quello che vi accennavo un po' prima, una questione di attitudine mentale, psicologica, è una questione di curiosità. Generalmente chi viaggia è perché è incuriosito dalla scoperta che può fare, dai posti che può vedere, dalle persone che può incontrare, quindi sicuramente il viaggio è e si basa sulla curiosità. Questo non vuol dire che chi torna sempre negli stessi posti non abbia in sé una parte, una percentuale di viaggiatore o di viaggiatrice, però diciamo che probabilmente si espone meno al rischio dello sconosciuto, al rischio dell'incognita e preferisce invece andare sul sicuro, e questo è un'altra modalità di vivere la vacanza. Forse fa meno viaggio e fa vacanza. Ecco, possiamo distinguere tra colui che viaggia e colui che va in vacanza. Ecco, e voi chi siete? Fate viaggi, andate in vacanza. Lucio ci scrive: Vietnam in solitaria. Ah, un sì, popolo fantastico, ma in generale i paesi più poveri, come il Nepal, in cui la gente ti insegna ad essere felice con poco. Mm-hmm. E questo per rispondere anche a molti ascoltatori che ci fanno notare naturalmente che con la crisi molti programmi di viaggio vanno annullati o modificati. Invece un ascoltatore... Forse vanno annullati e modificati anche le abitudini, perché si pensa che viaggiare voglia dire per forza l'albergo 3-4 stelle, piuttosto che tutti i comfort che abbiamo a casa. Invece viaggiare vuol dire mettersi in gioco e anche magari scoprire che possiamo dormire benissimo in una tenda o in un sacco a pelo sotto le stelle. Ma si possono anche trovare i bed and breakfast se proprio uno, diciamo, non vuole rinunciare lo a un letto. Di case, bravissima, infatti. Con il couch surfing. Esatto, lo scambio casa, volevo proprio suggerirlo. Oggi. Grazie Federica, perché credo che anche Miriam da Padova forse ha un suggerimento proprio di questo tipo. Miriam, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dire che ho fatto per 16 anni scout e con l'esperienza che ho fatto ho conosciuto un sacco di persone. Questo mi ha permesso anche di viaggiare un sacco, infatti ho fatto un sacco di giri, nel senso in Germania, 37 anni, quindi insomma li faccio lunedì, però ho fatto... Allora ancora 36. Sì, esatto. Non ci allarghiamo, eh? Ma va, sono terminati 37, qua c'è sempre questa diatriba su questo argomento. E quindi Miriam... E quindi niente, io ho visto un sacco di posti praticamente a gratis, nel senso che sono sempre stata ospitata fortunatamente conoscendo delle persone bellissime, esatto, per cui ho visto anche Stoccolma, cosa che non avrei mai potuto vedere se non avessi fatto l'esperienza che ho fatto, e poi ho visto la Germania, la Polonia, poi comunque mia mamma è polacca, quindi alla fine anche quello aiuta moltissimo, certo, sì, perché comunque è un'apertura mentale a Polonia viaggiare. È strepitosa, i ragazzi sono fantastici, sono stata con mia sorella qualche anno fa, tra Cracovia, Varsavia, Częstochowa, abbiamo fatto questo viaggio veramente meraviglioso, soprattutto i giovani hanno veramente un'apertura mentale eccezionale e amano moltissimo gli italiani, tra l'altro. Federica, chi mandiamo in Polonia? Quale... Ma sicuramente manderei dei giovani, nel senso degli universitari, per esempio, proprio per scoprire, confrontarsi e rendersi conto che fuori dall'Italia ci sono altre opportunità, sia di lavoro, sia di studio e anche di stile di vita. Però manderei anche delle coppie che hanno voglia di fare un'esperienza diversa dal solito, che citavi prima esattamente tu Cracovia. Cracovia è una città che durante il mese di luglio si anima con questo Klezmer Festival, per cui c'è la musica Klezmer suonata a ogni angolo di strada dall'alba al tramonto, ed è sicuramente un'esperienza da fare, magari con il proprio compagno, certo, perché no? Abbiamo anticipato agli ascoltatori che avresti dato delle indicazioni di viaggio per tre profili diversi. Partiamo dagli stressati. Il dottor Gargiulo li conosce bene, sicuramente vanno anche da lui in ambulatorio per dire non ce la faccio più. Dottor Gargiulo, come si lamentano? Così Federica trova per loro un'indicazione. No, effettivamente è vero, arrivano lamentandosi di non sopportare più nulla, più niente, perché è un momento difficile magari sul lavoro, che poi trasferiscono anche in famiglia. Insomma, sono persone che spesso somatizzano anche questa difficoltà e a volte fanno comparire dei disturbi che, ahimè, non ci sono esattamente, ma che rendono la loro vita veramente impossibile. Federica, per loro direi che la vacanza ideale è quella digital detox, come si dice adesso, cioè spegnere subito il cellulare, spegnere i computer, i tablet, togliere l'orologio, cioè riuscire finalmente a immergersi nel posto e rimanere lì con la testa, col corpo e con i pensieri. Per cui bisogna portarli magari meglio su un'isola, in un posto dove ci si dedica magari ad un'attività nuova, come può essere un corso di fotografia, un corso di windsurf, un corso di yoga, insomma qualcosa che li coinvolga completamente e che li tenga lontani da tutte le tentazioni digitali, che poi sono quelle che più più ci stressano. Esattamente. Iperlavoro. La sfida dei nuovi tempi è proprio quella: disintossicarsi dal cellulare, dallo smartphone, dal computer, no, Federica? Adesso, a prescindere dal luogo ideale, infatti, per la vacanza. Ci sono proprio pacchetti ormai, digital detox, in parecchie località nel mondo e anche in Italia, anche qui dove sono, quindi a Malta e a Gozo, è una delle attività più diffusa. Quindi si arriva qui, si butta via il cellulare in maniera non violenta. Ma insomma, è dura, questa sorta di disintossicazione è dura, però. Digital detox, no, ma ricordiamo, Nicoletta. Mi raccontava Nicoletta che si è presa togliersi il pane o i carboidrati, però ogni tanto, lo sa bene anche il dottor Gargiulo, è necessario, insomma, bisogna un po' ripulirsi e non soltanto sicuramente, anche psicologicamente. Allora, sicuramente abbiamo una sovrabbondanza di informazioni che ci bombardano costantemente, e soprattutto questa attenzione verso tutto ciò che comunica con noi, che effettivamente staccare la spina può essere utilissimo, sono d'accordissimo. Per chi è stanco fisicamente, esatto. E poi per chi... ad Anna, perché aveva una lunga mail. Lunga mail, sì. E poi possiamo dire, però, naturalmente, la stanchezza di tutto l'anno, agli ascoltatori dietro. Di scriverci. Per chi è stanco fisicamente, io spero che il dottor Gargiulo concordi con me, ma consiglio più la campagna o la montagna. Magari una campagna a pochi chilometri dal mare, però eviterei forse le sollecitazioni della vita balneare, quindi consiglierei appunto una destinazione come l'Austria, come il Trentino Alto Adige, comunque situazioni dove è più possibile dormire e trovare tempo sia per dormire da un lato, ma anche per pensare, per meditare. Qui ci colleghiamo un po' alle vacanze, al terzo profilo, anche la nostra spiritualità, quindi darsi del tempo per ascoltarsi. Uno può farlo sedendosi e meditando come fanno i maestri yoga, ma anche soltanto facendo una passeggiata in solitudine, leggendo un libro che magari non abbiamo avuto tempo durante tutto l'anno di aprire, e concedersi quindi il tempo di ascoltarsi. Credo che le vacanze e i viaggi dovrebbero darci soprattutto questo. Piccole e brevi passeggiate in questa vacanza sarebbero perfette. Allora, e noi intanto potremmo accompagnarvi in queste piccole passeggiate, perché Cuore Denari è sempre Non abbiamo aperto. Tempo, ma avremmo potuto lanciare il quizzettone: dove portereste Deborah e Nicoletta in vacanza? Facciamoli scatenare su Facebook e vediamo un po' che cosa si inventa. Noi comunque veniamo. Ah, sì. Grazie a Federica Brunini, al nostro dottor Carlo Gargiulo, che vi aspetta domani a Roma Vintage Salute per controllare il vostro sorriso. Ma per tutti quelli che non abbiamo potuto accontentare, direi che sicuramente un'altra puntatina entro una quindicina di giorni su questo argomento la possiamo già mettere in cantiere. Che dici? Assolutamente. Ottimo. Sì. Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica. Laura dove andrà in vacanza. Esatto, Laura Vanossi, Marco Lombardo naturalmente rimangono quanto più possibile con noi, e noi ci sentiamo lunedì. Assolutamente sì. Buona giornata. Buon weekend a tutti. Cuore e Denari.